schiaccio. Ma fai, Anto? Te lo puoi dire, mi non si offende Fabrizio, diglielo se lo schiaccio. No, almeno sono contento, caro. Perché non mi offendo per niente, nemmeno quando mi toccano il culetto mi offendo, immaginati un po'. Devo vedere se c'hai i piedi, cavolo. Grazie. Capo, mica c'è più la sorpresa però. Quello io vorrei trovare, non hai capito? La sorpresa. A te la sorpresa, a cosa sto dicendo a Fabrizio, la sorpresa te la faccio fare da una che si chiama Norma. Tu sai che la palla, ma... Ma guarda, se però guardi, lei sembra pure una... In fondo sembra anche una bella tipa, eh. Quindi la... Tu sei di quelli che conosce fuori, che non è mai uscito. Conosce fuori lo fregano, mi... Lo sai a Firenze quanti ne hanno fregato così? Che pensavano di trovare cosa, invece hanno trovato tutto l'impianto. E finirà. Sai che ti vengono i complessi, perché non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, capito? Che bello. La crisi è, vedi il culettino, ti piace, e poi scopri che c'è il lavandino e ti vengono i complessi. Proviaia. Ma sono visto di femmina, mi piace a me. Pagava. Poi, Luca, smettila di guardare le cose zozze. Ho lasciato un uomo, una mia amica. No, ora si può sotto. Luca. Casino a tuo piccino. No, ma detto, io non lo sono preso, per carità. Non è pure gli antivici fusa. Sente falsa. Cosa? Ma è... La siciliana non si è più sentita. Meglio, per me è morta. Ma avete bisticciato da poco. Ma che cazzo, c'è 45 anni una bambina, io la osa, io così, mi fai cucchi in tasca, questo, quell'altro. Diceva. È gente che ragiona diversamente, è gente che viene dal nord. Da nord. Noi che siamo altoatesini ce ne freghiamo. Amica, c'è un fischio sotto, un piccolino avanti. Hola. Mi ascoltate? Sì, già ti ascoltiamo, Gianni. Ma piccolino, com'è piccolino? No, piccolino nel senso che da vedere colpi mollavi. Attimi, guarda, c'ho avuto dei problemi, stavo facendo una cosa. Vai, vai, noi siamo qua. Sei andato a mangiare già. Fine, non ti hanno mandato, vai. Perché ora vai a lavorare? Io andate a lavorare, lasciatemi il canale libero, che è mio il canale. Il canale io ci do il più forte. Oh. Dimmi. Noi ci prendiamo un caffè insieme tutti quanti, eh. Che ora? Boh, facciamo dopo pranzo. Tu a che ora attacchi al lavoro? No, domani cosa è sabato? Appunto, domani è sabato e dopodomani non si va a scuola. Domani è un casino per me, devo fare un sacco di cose. Domani io ia. Guarda, mi sarebbe piaciuto. Vabbè, e invece ci dispiace se non ci sarai. Prego di amici. Luca, tu ci sarai? Questo PC, madonna, vuoi ti rincoglionisce? Sì, io ci rincoglionito tanto. Domani ci sarò, domani è sabato, no, vediamo, perché domani è 31, no, sono un po' impegnato a fare un po' di spesa, devo organizzare tutto tanto. E dove sei a Capolanno? Tanto non l'ho nessuno, mi ha invitato, no, ma che mettere i soldi, no, ecco, non è problema per quello, sveglio, no, non mi va, preferisco farmene da solo. Roger, e molti stanno prendendo quella decisione, molti sono così, non sono tutti che vanno a gamberoni, capito? Ecco, a chi stai alludendo, vedi che io basta mezza parola per capire tutto, Certamente no, può fare un discorso per insultarti. Sta attento, stai bravo. Tu sarei voluto venire qua senza proprio, però qua se non le facciamo noi le cose non le fa, cioè già l'hai capito già. Lo so, Anto, ci mancherebbe. Mi rivolgo a chi invece non fa niente, potrebbe stare con gli amici. State con gli amici. Figlio, c'è qualcuno che lavora, cacchio, eh. Non è che tutti possono stare lì a grattarsi i coglioni. Sì, no, oltretutto lavoro, poi io fino alle tre non ci sono a casa. Ah, io l'invidia è un'errogna, oh yeah. Ma fino a che ora dormi, giovane? No, io penso sì, no, all'una, anche perché credo ritira dei pasticcini domani. Presi da secchi? No, da quel che è, Romarino. Mamma mia, Angelo Romarino, mi dà un attimo, ti fa le cose, come si dice, le pesche e le pizzette, mi dicono, più buone del mondo. Però è che io ce l'ho, sai che c'è la casa al mare vicino a noi? E me? Sto per dire che comunque lo conoscevo e niente, vabbè, non, boh, vabbè, ne parliamo non in radio, dai. E vabbè, però io fa roba buona e a prezzi anche buoni. Ragione qua confermano, però chissà perché... Fabrizio! Vabbè, niente. Fabrizio! Dimmi. Ma poi è un controllo... Ah, no, vai su 15 una fine, scusate un attimo. Sto andando su 15 un attimino, torno subito. Ragazzi, mi raccomando, ce l'hai pronta, bombolo. Intendo questa notizia. Tipo, ci siamo sovramodulati, cosa hai detto? Intendo questa notizia. Che cosa? Nicola Murru è stato convocato giovane under dal Cagliari. Tutti contenti? Un appassionato di calcio, sì. Ah. Per che squadra tifi? Cagliari. Per la Torre, sì. No, a me piacciono le squadre di Serie A. Però. Ma non ci sei mai andato a vederlo il Cagliari? Magari. Sarebbe il mio desiderio. Un giorno ci organizziamo e ci andiamo a vederci una partita, dai. Magari, cazzo, sarei contentissimo, guarda. Se avrei il tempo e il coso per andarci. Un ragazzo giovane, sembra che ci abbia 18 anni. Mamma Zapotti, Lo so. Io lo so. Luca? Il nuovo stadio. Attivo, cosa hai detto? Nuovo stadio. Stadio. Nuovo stadio a cosa, Elmas? È attivo, io ho visto sempre quello di Sant'Elia, però perché ne hanno fatto uno nuovo? Non fare, una struttura moderna, tutta in acciaio, con non so cosa cavolo c'è di tecnologia, uno stadio allucinante devono fare. Mette Cellino a soldi a buttare. No, di stadi, per adesso a Cagliari ce ne sono due, che è il vecchio Amsicora e poi c'è il Sant'Elia. Devono fare lì, nell'aeroporto di Elmas, un stadio di quelli proprio moderni, che hanno tutto, visibilità, giorno, cioè di tutto e di più, Non so cosa cavolo tutto ci abbia, addirittura ci sono delle stanze dove ci sono degli schermi, dove vedere la partita, boh, è tutto tecnologico. Scusami un attimino che sto finendo di fare una cosa, riprendo subito. Rodino, il segnale si è per lo stesso, Attivo, migliore. Migliore? Non ti posso dare un controllo di segnale, però del radio sei molto più pulito, molto più forte, ottimo, perché cosa hai fatto? E vabbè, una serie di lavori, vabbè, sono comunque che va bene, non c'è problema. E tu presenza microfonica e, come si dice, molto pulito il coso della voce, il microfono, dai. E quello l'ho fatto anch'io, Per me un attimo. Cosa hai fatto già? Perché la radio è migliorata, è più presente, è più pulita. Avvertito dei figli, là. Ciao. No, ma era perfetto, adesso sembrava andare meglio, ma anche a me mi ha dato quell'impressione. Vabbè, interessante che farà bene, stazionale ce ne ho uno e uno. Allora va bene, anche io, va bene. Pagato, a voglia. Allora ci siamo io, tu, Bombolo, Lucariello e Grodd in QRX. Avanti Bombolo. Sai, Fabri, chiudo, ce la sentiamo dopo più tardi, dai, cioè, perché sto facendo un paio di cose, dai. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, io avanti, Gianni, sarà anche io fra un po', devo andare, quindi mi spetta, avanti Gianni. Al lavoro? Allora, tre notti. Allora, vabbè, fatto, ciao Luca. Fai, solo se non sono indiscreto. E io batto. Fai. Batto, inizio alle 10, sino alle 3 del mattino. Lì viene il portatore, mi travesto. Carità, altrimenti ti faccio un buon prezzo. Ah sì. Ah, effettiva. Non riesco a trovarne clienti di qua o già. E adesso vanno a giocare alla piazzetta. Vanno a giocare al bingo e poi quando escono vengono da te. Vanno a giocare al mongo, secondo me. Bingo mongo. E della bomba. Mi sembrate di sentire Sandro. Sandro, sei tu? Ecco che ho le orecchie fine. Buonasera. Buonasera, ma perché qua mi lantano tutti anni e anni di modulazione, dopodiché si perdono, vedi? Ui, ui, ui. Cazzo, io sono appena intervenuto così, abusivamente, quando ha già detto, ha detto. Non ho detto, bongo e basta. Va bene, ok, buonasera signori. Sera bingo però. Ciao Sandro, ben sentito. Quando senti cose strane pure tu intervieni, una certa si diventa viziosi. Adesso? Ehi, Gianni. Sì, ma ciao Fabrizio. Sì, ma a una certa età, sai cosa succede? Succede che ti rilassi, no? Diventi proprio rilassato, proprio non ti interessa più niente. Come è successo a me? Pagato. Sandro, dammi un controllino per dottore, se fa la cortesia, avresti sempre lo stesso segnale o se ho migliorato? Sono vecchio grande, mi fanno grande di baraguri. Eccolo. Eccolo. Adesso siamo al completo, eh. Eccolo qua, eccolo qui, bingo. Proprio passaggio già, non stavo guardando. Guarda che ho spostato alcune cose, non vorrei aver fatto casino. Allora, qui da me sei 9:15, radio stereofonica. Ma Giusuri, tu da... Comunque c'è un motivo, eh. È dato dall'età questa cosa, devi diventare piano piano di scivolare, capito? Perché sì, tutto ha inizio con l'esame della prostata. A uno gli piace, prova e poi lì. Ancora di quell'esame non ne ho fatto, eh. Immaginati. Tra un po' mi spetterà. Tu già sei così senza fare l'esame. Io guardo tanto, è fatto un mese di quell'esame, perché è bello. Nessuno. E tu avrai da fare dopo i 46, 47, 48 anni da fare. No, vabbè, adesso argomenti di radio non li avete, così è piacevole ascoltarvi. Partiamo sul discorso della prevenzione, va bene, ma se poi uno non gliene frega niente, tutto quanto va bene. Io stavo per mettere le mani addosso a un medico, poi... vabbè, quello è da fare. Vabbè, intorno a 47-48 è da fare. Poi dipende, anche se tu vuoi quello con le mani non è grandi, sei fregato. Se c'è più la gente, le cose, il medico con le mani di Gianni doppio russo è fottito, eh. Ecco, a lui. Però te lo faccio io, bro. No, anche io ho pensato la stessa cosa, Vigia. C'ha un paio di mani che sembrano, è presente così, i salumini Vismara, così no? Sì, ma quando c'è la pennellata di Cielo poi apposta. Di unguento degli angeli. Non tutti possono avere le mani affusolate come le tue. Se ti voglio vedere suonando il pianoforte con quelle mani. Io ti voglio vedere la bocca a gnocchi. Schiaffoni così. E tra l'altro cercando e uno e due, va a finire che la trovi, eh. Però. E pizzina, è uno e due e tre, e balala. Provocatore questo però, provocatore. Sempre mettendo fuoco, sempre mettendo fuoco. Apri e vieni cosa ti succede, stai attento. Infatti non è più Gianni dopo un rumbo, Gianni ruggia a fondo. Ti credo. Ha pagato. Oggi la tua guancia. O se le hanno portate tutte via o se le hanno sognate, boh. La serie porgi la tua guancia. Che non sono violento io. Avanti, Sandra, che prendi tu, vai. Ciao, stavo dicendo lì a Antonio Crote, a Sepia, e poi Crote. No, te l'ho chiesto se voleva venire oggi ad andare a pescare, invece non se l'hai sentita, boh. Una giornata ideale, io avevo proposto una mangiata, lui non ci è voluto via perché a dieta c'era, poi la fidanza ha detto che non lo vuole più e lo mette a chiedere l'elemosina. Pagava? No, perché l'ultima che ci siamo fatti di arrostita con Fabrizio ci è partito almeno due vassoie di cose di pancetta e uno di capocollo. Oh. Ci siete due galibuti, ve la fate, ve la vedete laggiù, eh? Io non sono mai andato con la fame. Credo, no. Non credo che se ne sia mai andata gente da casa mia con la fame. Oh. Te l'ha mangiato tutta la droga la cosa, dice che è la dieta e così mangia tutto ed. Allora organizziamo una rottita come si deve. Bisogna farla. Bisogna organizzare, bisogna trovare il posto e dopodiché iniziare a tirare graviglia. Tanto che c'è freddo, però se non abbiamo problemi attacchiamo la pompa di calore e ce la facciamo giù al mare. Io dovrei comprare anche due di quei funghi da esterno. È possibile che si possa fare anche lì. Che cane morto, non ce l'ha a casa al mare, che negativo, io ce l'ho ormai al primo piano, è meglio quella di Fabrizio che la piano terra. Ah ecco, non c'è il cortile. No, la tipologia delle mie è senza cortile. No, non c'è problema, questa parte di scherzi, si può fare in veranda anche sotto la me. È che è un bel freddo. No, la facciamo, me la possiamo fare, ma con cugia le vite, bello grande, mica la facciamo in veranda, che c'è un bel soggiorno lì, no, il tavolone, mettiamo, attacco la pompa di calore, metto la prima, scaldiamo bene, che ci sarà un po' di freddo a girare la graviglia, buccioni di vino e via, uno fuori e uno a metà strada entrando a casa. Aspettate che c'è Monti, che la sta preparando lui la rostita. Davvero, io stavo pensando, cacchio, perché, ma tu pensa, cacchio, cioè, questa volta ci crepa, basta avere due cose in più, mica infatti poi io e tu dicendo ti bagaffitti, cosa del genere, sei pure futti due. E se non sbaglio hanno le cose di suite, hanno prorogato gli sfratti a un altro anno, capito? Io me le vendo le case. Ma almeno non conviene più avere niente, tu non fa qualcosa perché pensa che la vecchiaia, la pensione ce n'è poco, affitti, fai, se uno si organizza e poi ti rimane di tutte le tasse, non te le puoi permettere almeno di tenerla, perché avere qualcosa all'affitti e non ti pagano l'affitto, comunque le tasse le devi sempre pagare, non è forte un cazzo, finché poi riesci a magari, penso, avere lo sfratto e con la nuova legge se stavo sentendo che sono stati rinviati di un anno, io. E non si può più. Non c'è nulla, non mi accorgo nulla, sto scherzando proprio, io non ho aggiunto. A casa ce l'ho avuto, ma l'abbiamo venuta e quindi non ce ne ho più. Beh, oggi comunque conviene avere poco e niente, perché poi basta che ti giri poco male il lavoro e ti trovi distrutto. Guarda, una cosa, non si può vivere così, però non si può. Comunque, a parte queste cose, bene che ce l'organizziamo una rostita, va? Perché ci può organizzare, se trovo una giornata non ventosa, si può arrostire anche fuori senza problemi, oppure ci accendiamo il forno e ci mettiamo un maialetto dentro e ce ne freghiamo, vabbè. Andare, per me io sono d'accordo, intanto per uno, chi porta quello, chi porta l'altro, poi facciamo la spesetta insieme e poi si mangia tutti insieme. E non fatti i roffi come hanno fatto una volta, hanno invitato a me, che ci hanno nascosto la carne del frigo, l'abbiamo sgamata, tu vedi la carne, ma tu te la mangi a te, certo, tu vedi la carne. Quindi è sempre qui, che ci hanno invitato la carne. Lo so, prende, ci hanno invitato e poi ci hanno fatto pagare anche l'acqua, lo scotto e si tutto quanto, non mi sono riconto, gli azzecchi. Io guardo un giorno sì, un giorno no, quando sono al mare arrostisco, no? Alle volte l'accendo perché c'è il piccolino che vuole vedere sempre il fuoco andando, vuole tre anni. Ecco, una cosa che facendo cene, che sempre un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. E quello è il mio divertimento. Comunque, se non abbiamo voglia di accendere il fuoco perché c'è freddo, si può organizzare, ma roba così, se facciamo un gruppettino, ci scendiamo giù, accendiamo il forno, mettiamo un maialetto, tutta roba useggetta, piatti di plastica, carta di plastica, fanno quella qua, un maialetto, o mette secondo quanti siamo, possiamo fare qualcosa, tutta roba del forno, poi facciamo vino buono, antipasti, roba così veloce, che quando finiamo prendiamo un sacco, buttiamo tutto dentro e ce ne andiamo. Poi per sprecare il carbone c'è per pinoli. E poi io cercare il pinoli per fare il fuoco. Mancetta o salsiccione, queste cose qua. Ti devo modulare tanti pinoli, allora sì. No. Ma a cucinare però si può fare. Se non voglio facciamo la grattina, la graviglia, facciamo un bel barbecue. Il problema è che c'è secca adesso, c'è freddo, in primavera. C'è un'altra volta, accendiamo il fuoco, perché un bel maialetto, un bel agnellino dentro il forno, curubata, tua è. È ventilato o a gas? Ventilato. Che ne piace? E l'ho ventilato, anche su c'è anche un bel forno a microonde, al limite se vogliono scaldare qualcosa, sotto ce l'ho bello ventilato, faccio quello un gioiellino per fare dolci e coso e maialetti e roba da mangiare. Su, già lo so, è ottimo. E poi ci vuole poco, un paio d'orette e su Goku è pronto. Bravo. Io vado a mangiare un attimino, ci sentiamo fra un attimo, rimango in ascolto ma non posso intervenire che ho le mani occupate. Ma scusa, non hai detto che stavi chiudendo poco fa per andare a mangiare? Ho detto, tu chiudendo stanno a mangiare, magari ci sentiamo dopo cena. Così, secondo round mi hai preso per il culo prima. Due cose, ma il problema è che siccome non ti puoi fidare in frequenza, perché come giri dalle spalle ti sparano subito a coso, a bruciapelo, allora rimane in radio ascolto, capito? Ok, c'è un bel dirigente che parla alle spalle, un bel. Vabbè. Vorrei che per intendere intenda e chi non intenda è in roulotte. Comunque la verità, ma a me mi avevi sentito, seriamente, mi avevi sentito parlare male di qualcuno alle spalle. Perché ti fa troppa fatica. Tanto da giusta, perché mi fa troppa fatica, non fa tutti nulla. Ma per questo caratteraccio brutto a quella Torino, non sono curioso e non. Mi annoiano cari certe cose, ma. Comunque, mi raccomando, non ti strozzare. Spesso. Avanti, cioè, bandiglio anche tu, perché quell'altro giorno si stava strozzando pur di non darmi, di non farmi mangiare a me, capito? Io stavo dicendo, ma tutta la mangia. Un attimo, scusa. Ma provatela con la cosa, a parte gli scherzi. Quale? Pistola. Sì, fatto, che è già finito, tutto a posto. Non te la spaccava il coso? Ma che cazzo spaccava? Va bene, ma alcune cose ci vuole il bulinetto per buttarlo bene dentro il chiodo. Non è che non c'ho porte di cartone forse, però non, quella lava è tutta un'altra cosa, quella è proprio. Però va bene, secondo me va bene per questi lavoretti, perché tanto non devi portare il compressore, proprio tu e tranquilla, va benissimo là. Il problema era secondo me che ti potesse, perché tu stai parlando delle cornici, cioè hai messo le cornici fra la parte alta e la parte bassa della parete. Ho messo le cornici nel coprifilo. Ma allora sono piudini, quindi non ce la facevi. Anche piudini, quelli erano anche troppo grossi per il lavoro che ho fatto. Erano grossi sì, ma non lunghi. No, proprio non entravano completamente alcuni e via, ma va bene, ma poi non è che me ne frega, perché io tolti più una volta sono un po' rovinati se li guardi. Certo, avendo coprifilo. fili ormai montati, ci sarei fatto attento, avevo fatto tutto un certo tipo di lavoro, non so se quella l'avrei usata, eh. Messa a manetta. A manetta, a manetta. Vabbè, a dopo, ciao. Ciao, avanti già. Lo dico, ma già poco, perché se ho preso la scommessa e poi devi dare 5 euro alla zingara. A una collega. È vero, è vero. Allora, riprendi, vedo chi c'è, vedo chi c'è rimasto, io, tu, Sandro, lui è Lucariello, anche Lucariello, poi stai accettando Lucariello, riprendi già. Io sono qui, ci sto facendo e parlando, quanto volevo dire, ecco che la vai a lavorare. Io adesso fra un po' mi devo partire sono 10:15, 10:15, esco da qua, cosa là, mi fate altri 2-3 minuti, poi chiudo, poi inizio a vedermi due cose, poi devo tirare fuori la macchina al garage, devo passare lì, devo prendere della roba dal cofano dall'altra macchina e piano piano, poi voglio sentire due cose, quindi fra un paio di minuti chiudo e via. E ancora già presto, dai. Alle 11 comunque, 11 meno 10 devo entrare, prima arriva meglio, così do il cambio a quel povero Cristo che è lì. Sta pagando. Qua c'è un cartello, caro Premier Monti, tu con 72.000 euro al mese chiedi sacrifici a me, vigile del fuoco precario da 7 anni. Ah, siamo rimasti senza buttare, io sono praticamente con i pantaloni abbassati, lui e lei con i pantaloni abbassati e la maglietta alta per si vede il reggiseno. Certo, lui ci va. E non è così alla fine, questi non capiscono cosa vuol dire fare sacrifici, non lo sanno nemmeno, ma il bello è che sono mio amico, però stanno distruggendo quella che è la classe media o medio bassa e medio alta, è quella che creava movimento, cazzo c'è la gente morendo di fame, cioè nel momento che non esiste più quella che c'era una volta che era la classe media, medio bassa, medio alta, no, quella che faceva giro, cazzo se non esiste quella e sta morendo quella, muori tutto, ci rimarranno sotto i super ricchi che fanno il grosso giro, che sono sempre di meno, sempre più ricchi, e il povero, è il morto di fame che gli daranno i sussidi per campare, che con lo stipendio a malapena riesce a campare, che non potrà mangiarsi la pizza, niente, i pizzaioli non esisteranno, non esisterà più niente fra un po', cioè comunque le cose diventano molto molto tristi. Qua se non ci diamo una regolata facciamo un po' di casino, ci mettono sotto i piedi. Allora, arrivare come era 10, 12, 15 anni fa, quel consumismo giusto, cioè il consumismo che tu con lo stipendio per il ciclo avevo lavoro, andavi a mangiarti una cosa fuori e ti facevi là, che ne so, 10 giorni di vacanza fuori e ti cambiavi la macchina quando si rompeva, avevi i soldi per togliere un piccolo obbligo, perché un lavoro non lavorava, faceva, ma no, lavorando non le puoi più fare queste cose, ma quello creava lo giro, sai, chi vendeva quello, chi vendeva l'altro, la gente arrivava, si faceva, si vedeva in macchina, c'è tutto un giro poi alla fine, ma invece la catena si sta bloccando. Lo so, ma mettervi anche qualcosa da parte dallo stipendio, dico io. Io per dire mettevo mezzo milione, lo mettevo da parte in banca, che tu adesso poi me lo gestivo per le altre cose. Diciamo stavo tranquillo, ma adesso è un casino. Sì, ma oltre che mettere soldi da parte, no, oltre che mettere soldi da parte, era proprio il concetto nostro, no, di come creare questa società, che uno piaccia o non piaccia, con questo un consumismo. Il consumismo sta morendo, quando muore il consumismo crolla tutto, basta. Lattura, il cazzo compri, devo andare nei grossi centri per comprare la poca roba da mangiare, però non avrei più soldi, c'è oggi uno stipendio, ma cazzo fai a comprarti una casa? Ma cioè, nemmeno ci pensi, capito? Perché è impossibile. Prima invece compravi la casa, eravi 15 anni, 20 anni, poi compravi la campagnetta e ti cambiavi la macchina e comunque facevi giro, ormai è tutto morto, poi sta morendo l'edilizia, muore tutto. Io dico la verità, devo ringraziare che la casa me l'ho comprata e ce l'ho, però chi viene dopo di me, tipo i figli, un casino. Infatti che proprio più per noi è per loro, è tipo che ci mantengano il posto di lavoro. È il giorno che mi dovrei rimettere in discussione, perché ormai sto facendo praticamente poco e niente, solo quello. Finché rimettermi in discussione, ho 42 anni, a 42 anni è triste rimetterti in discussione. Se mi capitava di rimettere in discussione completamente 10 anni fa, cazzo, anzi, forse ero anche contento perché mi dava, sai, un po' di adrenalina. Oggi non ne ho più voglia di rimettere in discussione, e poi non c'è più niente da inventarsi. Beh, a poca, a guapo, va. Meglio non parlarne, perché se no se facciamo tutto ci rovino il capo là. Così noi abbiamo fatto la cena, no? Su, aziendale. Prima ha dato l'email, io non ci sono mai andato di che avete acceso, no? Non voglio che mi mancavano quando è andato, tanto gli ho detto, guarda, se andiamo lì, prima iniziano a piangere e poi ti togli da mangiare. E quando sei anche di traverso, ti vai così, è stato, no, perché non abbiamo detto, poi infatti io non ci sono andato. Mamma mia, non me ne parlare di queste cose, perché non fanno altro che parlare di questo, sono tutti preoccupati, anche in ditta, che vendano cose, che vendano qua, che vendano là, che ci mandino via, diciamo che non si può vivere con questi pensieri. Buona cosa, bisogna vivere la giornata, buonanotte, se succede parte, che cosa devi fare, non ti stiamo a fare. Ma lo so, poi alla fine se guardo tutti, quello piccolo impresario, no, per una piccola impresa, artigiano, no, faceva muratore, cioè, quant'è, tanto non ha senza preparare 40 anni, senza precedenti penali, ha fallito come hanno fallito molto, tanto l'hanno arrestato per 2000 euro, è andato con un cacciavite a rapinare una farmacia, poveraccio, immaginate un po' contro i figli come doveva essere disperato. Lo so, rubare è l'ultima cosa che farei, perché a me mi è stata fatta questo tipo di educazione. Mia madre mi diceva sempre, se vedi uno spillo e non è tuo, lascialo dove è, preferibile risparmiare i soldi, comprarlo col sicuro della fronte, poi almeno poi c'è la soddisfazione che è roba tua, che l'hai comprato con i tuoi soldi. Lo so, hai ragione, anche io ho avuto l'educazione, anche più rigida, guarda. Comunque, no, se c'è Sandro, così lo saluto e faccio un corretti, perché sono troppo parola. Sandro, se ci sei, comunque ben sentito, ti faccio gli auguri a te, a Gianni, a tutti quelli che sono in ascolto, di un buon anno, un buon fine anno e un buon inizio d'anno nuovo, e avremo modo di sentirci magari alle prossime. Io da questa parte QRT, da parte mia, perché devo trabattare purtroppo. Avanti, se ci sei. Grazie per gli auguri. Spero di dirci che ci sentiamo domani, magari ce li facciamo domani, però non riuscendo ve li faccio adesso in anticipo, dai, se no magari domani sera, sarà un po' difficile, dai. No, riprendi già, no, se vuole essere ancora Sandro da Porto Torres. Papà, guarda, il video più bello è che elimino Almonti, che finisca di fare cazzate, che ce lo buttino fuori, non ci piace, sai che hanno montato, ma a parte sa. Sandro non c'è, non risponde, chi è rimasto su 10? E Fabri, prendi la macchina di tua moglie e poi? Non lo so, ci stavo pensando, ma ricordo uscendo con la mia che devo caricarmi il cofano di roba, capito? Ah, vabbè. Guarda, se vuoi c'è due il furgone, non c'è problema. Carichiamo tutto. ciao, buon anno, se non ci sentiamo, Fabri, buon lavoro. Se stai scendendo con la tua non ci sentiamo manco per radio, quindi non ti posso fare compagnia. Sì, no, aspetta, voglio chiedere un'ultima cosa, l'impianto gliel'hai fatto? Quale impianto? Canto stereo nella macchina nuova. No, lì non puoi toccare niente, se ti ricordi tutto, lì devi poter toccare niente, perché tutto, c'è un caricatore di CCT salvanti, che c'è un foro, tutto da una plancia lì, dove c'è il climatizzatore, dove c'è anche la radio, tutto un blocco, ormai ho chiesto un apparecchio particolare che praticamente si prende il segnale, lo rielabora, lo amplifica, lo risbatte dentro, col computer c'è un parametrico, quindi lo puoi parare, fare tutte le tarature che ritieni giuste, e riesce anche a centrare la voce, quindi a dare i ritardi temporali per avere dei piani sonori giusti, eccetera eccetera, una macchina nuova. Però non mi hanno dato risposta se c'è l'interfaccia per la macchina mia, capito? Quindi sto aspettando, perché se no qualche modifica l'avrei fatta, però a livello di questa macchina, perché era fante, non è puoi modificare, non è che puoi fare grosse modifiche. Ma a livello di casse acustiche, di queste cose qua, sì. Quello si può cambiare, ma se non c'è buccia sotto non si può fare. Se con questa macchina, vedi, se mi davano la risposta di questo processore per fare queste modifiche, allora ci avrei lavorato, perché avendo quel processore l'avrei provato, avrei fatto la caratura, e poi se a quel punto avrei potuto cambiare, insonorizzare, fare quelle cose le puoi fare, anche se su una macchina come questa sono un po', anche perché io poi queste sono, non è che tengo molto le macchine, quindi finché fare tutte queste modifiche, per cui un po' mi si gira le balle, capito? Ma questa qui è una nuova che vorrei già dare. No, vabbè, io gliene tengo 3-4 anni, quindi può essere che questa magari la tengo di meno, perché avevo intenzione di prendere un'altra macchina. Quando esce, ancora non uscita, sto aspettando che esca, quando esce prendere la mia, se la vendo e prendere la, non lo so, potrebbe essere, se non la tengo 3-4 anni, come ho sempre tenuto tutte le macchine, oppure non lo so, però alla fine si può fare, però se non mi danno risposta, sto aspettando la risposta di questo processore, ci vuole questo processore, e dopo da con lui si può iniziare a lavorare. Anche io prima le cambiavo anche ogni 2 anni le macchine, adesso questa che ho ce l'ho qua 9 anni, è una buona macchina, non mi ha dato problemi. No, ma è la cosa migliore mia, alla fine io lo faccio giusto perché sono appassionato. Se poi un giorno mi inviti in garage, mi porto un altro garage, ti faccio vedere la anche macchina bella, cazzo d'epoca, ancora deve... Sono appassionato di queste cose, mi è sempre stato appassionato, quindi mi piacciono per quello, però secondo me la scelta più giusta, a prescindere che una molto o poco, a prescindere, è giusto che una bella macchinetta, un 1.800, 2.000 turbo diesel, che vanno benissimo, e tenerla... Guarda, sino a trarla bene, ma una decina d'anni, 12 anni, sino allo spascio. Quando si spascia, trovarne una di 2-3 anni di vita in ottime condizioni e portarla nuovamente sino alla demolizione. È la cosa più giusta, perché tanto sono tutti soldi buttati. Sì, no, a meno che sia una macchina d'epoca, allora quello lì non ho valore, ma se no sono proprio una svaluta, le macchine da come si dà la fabbrica svalutano. Non ti puoi organizzare nulla, non ci guadagni niente, proprio ci perdi di brutto. Dunque, vabbè, la fabbrica. Una domanda che ti volevo fare, perché so che è una passione, ma una macchina nuova non ci fa nulla. Te l'ho spiegato, poi il discorso, piccola modifica, forse gliela farò, te l'ho spiegato, però poi per fare impianti come dico io devi prendere una macchina, smantellarla completamente, ricostruire il tasto, insonorizzare, buttare in mettere otto raggio nuovo, una certa fonte, una certa qualità, amplificare, per fare un impianto di quelli come si deve, che puoi fare su macchine come quella, come macchine che tipo la Motus, comunque macchine che nascono, che hanno un proiettile in predisposizione, basta, che non è che l'elettronica della manichina è praticamente tutta una con impianto stereo, con navigatore, tutte le puttanate che ha, il telefono della macchina, eccetera eccetera, quindi non puoi fare niente. Lì puoi fare cose e le fai, al limite quando devi vendere. A parte che c'è una macchina come quella che chissà quanto ti arroga la macchinetta, ma quando la devi vendere all'interno la fai, smonti tutto e via, ma metti 2 casse normali, bellina, hai visto da vedere, ma la macchina non è mia, come fai a smontarne tutto? Una volta che la modifichi, cioè ti la devi lampare, chi te la compra più? Già, comunque, io ti saluto, dai, ci sentiamo domani o se no alle prossimine. Papà Fabio, ci sentiamo, stammi bene. Buon lavoro, ciao. Hola? Ciao. Niente, Andrea. Ci sentiamo fra, se mi lasci mangiare, ci sentiamo fra due minuti. Sì, mangia, mangia. Che io... c'è nel computer. Arrivo subito un attimo, eh. Non so se lo conosci, questo modello è un po' vecchiotto, modello 103 della ZG. Mi sta dando adesso 1,1, però questa sera me l'hanno quando piove e c'è molta umidità. Se no di regola sono a 1, oggi ce li ha 1,1. Attacco lineare mi arriva a 2, boh, crano, non l'aveva mai fatto. Lineare non lo resetto con quello, no? Ah, così è. Questa la verità non l'avevo mai fatto. Adesso sto aumentando. Segnando invece 1,2 di stazionarie. Esatto, quindi tornano di più i conti. Perché cosa succede? Quando tu fai il fondo scala con 5 watt, quando tu gliene dai 50, il fondo scala va rifatto perché la lancetta se ne va tutta a farci friggere, devi riammassare la manopola parecchio, perché il fondo scala ti fa ogni volta che hai un wattaggio diverso. Se misuri con 3 devi fare il fondo scala, poi vedi le stazionarie, poi metti 10, fai il fondo scala, vedi le stazionarie, metti 100, fai il fondo scala, metti le stazionarie. E le stazionarie giusto, le 1,1 possono anche salire 1,2, l'unica lanterna è perfetta. Ah, perfetto, guarda, ti giuro, no, ti ringrazio. Adesso sono esattamente a 1,2, tondi, con linearetto. Che pure alla fine qua mi fate, ora mi... simulazione 20 watt tondi, adesso, e senza arrivo a 3. Erano 20 prima? Allora, così sono 20 watt, tu mi stai indicando la lancetta a 20 watt, tondi, poi col fischio 30, col fischio 30, parlando così normale 20 e senza sono 3 watt. Esperto, toglimi questa curiosità, un lineare, aspetta che attacco questo, sì, un lineare 747, per dargli una buona alimentazione, 5 ampere bastano oppure no? Allora, adesso io in questo momento sto usando, non so se lo conosci, un piccolo lineare, la 1230 della Winner, non so se ce l'hai presente, è tutto nero con le scritte rosse, e sto provando, ne ho prestato un alimentatore da 5 A. Secondo te batteranno per questo piccolo lineare? Guarda, sta usando benissimo, non sta saturando, non sta andando niente. Penso che avrebbe dovuto dare forse qualche parte in più, ma penso che siamo giusti, 20-28, anzi mi ha detto fischiare una ripresa, quindi è giusto. No, non lo conosco, ma lo stai pilotando bene, la modulazione buona, il segnale buono, la differenza è notevole, quindi è tutto ok. Ah, è tutto perfetto. No, mi sto contentando, vabbè, ripeto, in molte cose sono proprio ignorante, è la verità. No, non esaltavo mai il 7, come mi hai detto tu. Assolutamente non tenevo sempre bene, non è possibile, tutte queste stazionarie. Tra gusto dell'antenna, controllo, pulisco, faccio, boh, che strano. E poi alla fine sbagliavo io. Sì, perché se sei tutta stazionaria con 5 watt, non può passare da 1 a 2,5. Se gli nemici magari ti sarà 1,5, 1,7, perché se non sei proprio super perfetto, un piccola discordanza può avvenire qualche cosa, allora sì. Ma ogni volta che se l'ha fatto sempre, sempre, sempre, ogni volta che vuole fare il 7, devi fare il 7. Cambia il vantaggio, devi fare sempre il 7. Ah, è perfetto, di lusso, va benissimo. Adesso vedi che se poi quello stesso lineare che io avevo la volta scorsa col problemino della resistenza che si surriscaldava, sono andato da Fusaro, l'ho comprata più grande, molto più grande, e scalda ugualmente. E come ti scalda? La resistenza. Con il corso, ma l'ho presa con un vantaggio più alto? Sì, abbastanza più alto rimane, sì. Diciamo che la resistenza con lo sfondo cappellato e poi i colori, questa rimane tutta marrone, marroncino leggermente scuro. Lo vede molto, anche notevolmente, come anche visiva si vede che è grande come resistenza. Però scalda sempre al momento in cui tu stai modulando. È un bel po' anche. Non so se sia normale. Probabilmente sei sicuro, quel marrone te la mette da 2 watt. Dove si trova questa resistenza poi alla fine? Quindi questa resistenza è collegata al relè che c'è all'interno, che in bianco c'è scritto Filler, poi c'è scritto 30.22 12 volt. E questo relè serve per quando la muro in M o in base laterale che gli fa quel doppio tichitio. E questa resistenza si trova in zona di questo relè? Alto, proprio a fianco, lì rimane a fianco, e poi invece quest'altra resistenza ci sono un'altra resistenza più piccola, pure quella specie di lenticchie, c'è intorno e due piccoli condensatori. Magari farà da filtro, farà da limitatore di vasto per il pilotaggio dell'amplificatore, tutto sommato dove sopportare il vasto dell'apparato. Una cosa c'è di buono, che se sopprimo una resistenza da 1/4 e si è corta o comunque annetita, una resistenza da 2 watt regge meglio, per quanto posso scaldare va bene così. Verifica solo se un domani si interrompe e si brucia, ma se scalda solamente può succedere che una resistenza scaldi solo lì, c'è un passaggio di corrente più o meno. Sì, quello sì, però alla fine vabbè, io ne ho preso due resistenze, le ho pagate sui tutti e due insieme 60 centesimi. Ecco, questo tipo che ho montato, poi un altro tipo che rimane ceramico, tutto bianco, una specie di cubo se ce l'hai presente. Una specie di cubo? Un cubo, no, non un tubo, un cubo, rimane un piccolo cubo bianco, con i due lati sembrano cementati, eppure sono direttamente, diciamo, i pezzi di le due gambe da saldare. Quella è la più grande che avevano, l'ho messa e ho visto che non andava. Ah, sì, sì, sono quelle cambiate completamente, che sono grosse, sono da 5 lati, sono grosse, le ho viste molto. Ma io gli stessi, cos'è da 38 mi pare. No, l'ho controllato tutto, l'hanno dato la stessa misura della vecchia, però con un watt, con dei volte più, così se mi ricordo, molto watt, molto più superiori. Poi l'ho piazzata la prima, che ho piazzato ma non andava, la verità, non funzionava questa scarpetta, ho messo quest'altro modello leggermente più piccolo e vedo che funziona, lo sto usando adesso. Si riprenda, perché come ogni anno lei deve venire sempre la febbre, dunque speriamo che domani sia bene, allora già usciamo a casa di amici, speriamo che domani si riprenda. Si tiene la capo e già si riprende, già mi hanno fatto un bacio nome. Ok, Antonio, è stato un piacere, sono contento, vabbè, almeno un'altra dritta per essere sicuro su come si fanno le tarature di quello, così non ti tranquillizzi, perché giustamente non fanno i conti, quando superi i due di rosso c'è molta potenza, molti vatti che ti hanno ancora indietro e quindi poi ti seduce alle finali, quindi non va bene, e l'antenna non sta ragionando in modo corretto. Ci sentiamo presto, 73.1, Sandro Paolo del Baghe, secondo me siamo sentiti assolutamente, comunque anche noi siamo fuori zona, un augurio di notte, saluto, ciao ciao. Grazie, ti auguro a te un buon anno, a te, a famiglia. Almeno qua sei l'unico che ha delle dritte giuste e spiegate alla perfezione, con te si impara in fretta. Ti ringrazio, ci sentiamo alle prossime, ripeto, e buon anno. Ciao, buonanotte.